si fermi qui. Sono tanto stanco, mi fermo, sì. Attento, sparano, si butti giù. Sto attento, ma riparati anche tu. Dimmi un po', soldato, di dove sei. Sono di un paese vicino a lei, però sul fiume passa la frontiera, la riva bianca, la riva nera, e sopra il ponte vedo una bandiera, ma non è quella che c'è dentro il mio cuore. Tu soldato allora non sei dei miei, ho un'altra divisa, lo sa anche lei. No, non lo so perché non vedo più, mi han colpito e forse sei stato tu. Signor capitano, che ci vuoi fare? Questa qui è la guerra, non può cambiare. Sulla collina canta la mitraglia e l'erba verde diventa paglia, e lungo il fiume continua la battaglia, ma per noi due è già finita ormai. Signor capitano, io devo andare, vengo anch'io con te, non mi puoi lasciare. No, non ti lascerò, io lo so già, starò vicino a te per l'eternità. Capitano, si fermi qui.